Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Pensa di dimettersi? No. Le opposizioni sono 2 anni che ripetono la stessa cosa. Quella che ho detto in Parlamento 2 anni fa, lo ribadisco e lo confermo, è scritto nello stenografico della seduta, è qui, chiunque vuole può leggerlo anche su Twitter, sul mio ultimo tweet. Io non ho mentito, quello che ho detto in Parlamento lo ribadisco. Non c'è stato nessun favoritismo nei confronti di mio padre, non c'è stato nessun favoritismo nei confronti della mia famiglia, anzi, il governo di cui facevo parte ha commissariato il consiglio di amministrazione di cui faceva parte anche mio padre, mandandoli a casa tutti, compreso mio padre. Questa, care ascoltatrici, cari ascoltatori, è Maria Elena Boschi, sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio, ex ministra delle riforme, che si è difesa poco fa a 8:30 sulla 7 questa trasmissione a proposito di questa nuova bufera su Banca Etruria, in cui in qualche modo è stato tirato in mezzo il suo nome, perché Vegas, presidente della Consob, che è l'organismo di controllo della borsa, oggi in audizione nella commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche ha detto che le aveva chiesto in passato un colloquio lei su Banca Etruria, però senza fare nessuna pressione. Allora di nuovo le opposizioni hanno chiesto le sue dimissioni e lei così poi ha risposto ribadendo che non si dimette, perché non c'è alcun motivo per dimettersi visto che non ha mentito. Ne parleremo naturalmente ampiamente, così come ci occuperemo di biotestamento, visto che questo provvedimento ormai dopo tanta attesa è legge, e cercheremo di capire soprattutto che cosa contiene. E poi anche racconteremo un po' la storia di Paolo Nespoli, Astro Paolo come è stato chiamato, che dopo 5 mesi tra le stelle è tornato, atterrato oggi di nuovo sulla Terra. Cercheremo anche di farci raccontare qual è stato l'obiettivo, lo scopo di questa missione durata così tanto. Direi quindi che i fatti sono moltissimi da raccontare, poi ce ne sono altri, quindi prima di cominciare con la sintesi della giornata, prima di tutto, prima di affrontare gli argomenti con gli ospiti, vi ricordo i 2 canali privilegiati per voi per intervenire con Effetto Notte, che sono la pagina Facebook del programma, che lì la potete trovare molto facilmente, e poi numero per WhatsApp ed SMS, che è il 349-238-6666. Anche sul biotestamento, se avete delle domande da fare, fatele per tempo. Intanto parto raccontandovi in sintesi la giornata. Banca, il presidente della Consob Vegas, ascoltato su Banca Etruria, dice: ne parlai col ministro Boschi, ma da lei nessuna pressione. Le opposizioni chiedono le dimissioni della sottosegretaria, ma lei replica: non ho mentito, niente dimissioni, annuncia querela contro Di Maio. Il biotestamento è legge, via libera definitiva del Senato alle disposizioni anticipate di trattamento per il fine vita. Tragedia in Francia, uno scuolabus è stato investito da un treno, 4 bimbi morti e 7 feriti. Il vertice europeo, a Bruxelles permangono le forti distanze sul tema immigrazione, domani invece ci sarà l'accordo sulla Brexit. Milano, trovato il cadavere di La Rosa, l'ex calciatore scomparso era nel bagagliaio di un'auto. Intrattenimento, Walt Disney compra i film e la TV di Fox per competere con Netflix. Spazio, dopo 5 mesi tra le stelle, Paolo Nespoli torna a casa, è il secondo europeo per tempo trascorso in orbita. Partiamo quindi dal caso Banca Etruria, appunto, l'istituto toscano fortemente indebitato e poi commissariato dal governo nel 2015, tornato oggi, come avete sentito, la ribalta delle cronache e dello scontro politico con le dichiarazioni del presidente della Consob Vegas, che ha parlato di un incontro con l'allora ministra Boschi, che si sarebbe interessata di Banca Etruria, senza però, ha detto Vegas, fare pressioni. Immediate però le reazioni politiche, però partiamo dalle parole di Vegas. Il presidente della Consob, Giuseppe Vegas, conferma di aver incontrato l'allora ministro per le riforme costituzionali Maria Elena Boschi, ma nega di aver ricevuto pressioni. Vegas spiega di aver avuto 2 o 3 incontri, il primo in Consob su richiesta di Boschi ad aprile 2014. Infine, precisa che dal ministro Maria Elena Boschi non c'è stata pressione, ma solo l'esposizione di un fatto nell'incontro a Milano. Ho avuto modo di parlare della questione di Banca Etruria con l'allora ministro Boschi. Mi venne prospettato un quadro di preoccupazione, perché ad avviso del ministro ci poteva essere l'eventualità che Banca Etruria fosse in qualche modo incorporata da Banca di Vicenza, e questo sarebbe potuto essere di nocumento per la principale industria di Arezzo, che è quella dell'oro. Io non potevo dire niente, perché non è competenza di Consob intervenire sulle scelte di aggregazione delle banche. Sul fronte dei controlli pubblici sulle banche, nella sua relazione Vegas inoltre sottolinea come il sistema, anche per la continua evoluzione normativa europea, è divenuto molto articolato delicato e complesso. Emerge come vi siano 19 soggetti di natura pubblica che si occupano a vario titolo della vigilanza e della regolamentazione del settore bancario. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Come vi dicevo, le opposizioni chiedono le dimissioni di Maria Elena Boschi, ma lei ribadisce: non mi dimetto, le opposizioni sono 2 anni che ripetono la stessa cosa, ribadisco quanto detto in Parlamento 2 anni fa, non ho mentito, non c'è stato nessun favoritismo nei confronti di mio padre o della mia famiglia, l'avete sentita poco fa, e annuncia querela nei confronti di Luigi Di Maio, che l'ha definita la Mario Chiesa della Seconda Repubblica. Mario Chiesa era quello che era stato trovato con in tasca delle mazzette che diede poi il via a Tangentopoli. Biotestamento, dopo lunga attesa, dicevamo, e polemiche, il provvedimento è diventato legge. Sostenuto da una maggioranza trasversale che comprende PD, Movimento 5 Stelle e Sinistra, ma anche parte di Forza Italia, per il biotestamento arriva il via libera definitivo da parte del Senato. La legge sul fine vita prevede che nessun trattamento sanitario, comprese la nutrizione e l'idratazione artificiale, possa essere iniziato o portato avanti senza il consenso della persona interessata. Dure le critiche da parte del fronte del no e dal mondo cattolico, secondo cui la legge apre la strada all'eutanasia. La Conferenza Episcopale Italiana parla di norme opinabili e discriminatorie. È un passo avanti per la dignità della persona, commenta invece il premier Gentiloni, soddisfatto anche il radicale Cappato, che invita ora ad approvare anche una legge sull'eutanasia. È importante perché la tecnica ha spinto sempre più oltre le possibilità di sopravvivenza dei malati, ma questa non deve essere una imposizione, una tortura contro il volere del malato stesso. Stiamo parlando di libertà e questo va garantito a tutti i cittadini. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E capiremo tra poco, al di là del dibattito, che ormai insomma il testamento, il biotestamento è legge, quindi capiremo dalla relatrice che cosa contiene, che cosa cambia con questa legge. Intanto passiamo alle notizie dall'estero. Questa tragedia in Francia: uno scuolabus è stato investito da un treno vicino a Perpignan, nel sud-est della Francia, non lontano dal confine spagnolo. Secondo la TV TF1, il bilancio provvisorio è di 2 morti e 7 feriti gravi. L'incidente è avvenuto sull'asse ferroviario Perpignan-Villefranche-de-Conflent intorno alle 16 di questo pomeriggio. La crisi nordcoreana: il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha messo in guardia sul pericolo di procedere come sonnambuli, dice, verso una guerra in Corea del Nord che potrebbe avere conseguenze drammatiche. Durante il suo viaggio in Giappone, il segretario generale dell'ONU ha incontrato il primo ministro Shinzo Abe e ha affermato che gli sforzi unificati per attuare pienamente le sanzioni a Pyongyang sono la chiave per risolvere la crescente minaccia nucleare e missilistica. E poi il vertice europeo in corso, il tema dell'immigrazione è stato al centro della prima giornata del vertice a Bruxelles, ma la distanza tra i paesi europei sulla redistribuzione dei migranti rimangono decisamente consistenti. Nel frattempo il summit ha lanciato ufficialmente la cooperazione per la difesa comunitaria. Poi nel corso di questa puntata entreremo più nel dettaglio. Passiamo all'economia. La Banca Centrale Europea prevede una crescita forte nel medio periodo per l'Europa. La Banca Centrale Europea non abbassa la guardia, lasciando come previsto i tassi invariati e confermando il quantitative easing, ossia l'acquisto di titoli varato per sostenere l'economia, pur se dimezzato a partire da gennaio. Francoforte ricorda che lo stimolo monetario è ancora necessario, nonostante i segnali di ripresa e di rafforzamento dell'inflazione si stiano facendo più forti. Risk surrounding the euro area growth outlook remain broadly balanced. La dinamica della crescita e i segnali che arrivano dagli indicatori di fiducia, dice il presidente della Banca Centrale, Mario Draghi, potrebbero portare sorprese positive in termini di crescita nel breve termine. Oggi, aggiunge, siamo più fiduciosi di 2 mesi fa sui target di inflazione. Nonostante questo, la BCE conferma che i tassi rimarranno a questi livelli ben oltre la fine del periodo di acquisto di titoli, prevista per settembre. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo alla cronaca con un duplice omicidio nel Viterbese. Dicono che sia il libro più terrificante mai scritto, vediamo se è davvero così, scriveva su Facebook Ermanno Fieno, 44 anni, poche ore prima del delitto. Un libro horror che forse potrebbe avere ispirato la posizione AL in cui sono stati ritrovati i cadaveri dei suoi genitori Rosa Franceschini e Gianfranco Fieno, 71 e 83 anni, nella loro abitazione di Viterbo. Erano avvolti dal cellofan, forse per rallentarne il processo di decomposizione ed evitare il propagarsi del cattivo odore. La donna sarebbe stata colpita alla testa con un attrezzo in ferro all'interno del camino mentre l'uomo non presentava segni evidenti di violenza. A trovarli una figlia che si era insospettita poiché non riusciva a mettersi in contatto con i genitori. Al fratello Ermanno aveva chiesto notizie, ma si era sentita rispondere in maniera elusiva: sono ricoverati in un centro anziani, aveva detto, senza specificare altro. La donna avrebbe quindi allertato polizia e vigili del fuoco, costretti ad entrare dalla finestra poiché la serratura era stata sostituita. Di lì la tragica scoperta. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. E adesso la svolta nel caso dell'ex calciatore scomparso, Andrea La Rosa. È arrivata questa svolta nel pomeriggio. Il cadavere del 35enne sparito nel nulla a Milano il 16 novembre è stato trovato dai carabinieri a bordo di una macchina che viaggiava lungo la Milano Meda nel Monzese. Il corpo era all'interno del bagagliaio, chiuso in un fusto. Stando a quanto trapela, il cadavere era integro, non era legato, era seminudo. Al volante una donna che è stata fermata per l'interrogatorio e poi poco più tardi sarebbe stato fermato anche un uomo. E per quanto riguarda la donna scomparsa nell'Aretino, la Corte d'Assise d'Appello di Firenze ha rimodulato la pena per padre Gratien Alabi a 25 anni di reclusione. Il religioso era stato condannato in primo grado a 27 ad Arezzo per l'omicidio e l'occultamento di cadavere di Guerrina Piscaglia, la cinquantenne scomparsa il 1 maggio 2014 da Caraffaello, la località dell'Appennino Aretino dove la donna viveva e dove il religioso prestava servizio nella locale parrocchia. Quindi in appello da 27 anni, 25 anni di condanna. Parliamo di intrattenimento. Cambiano gli assetti televisivi e cinematografici con l'operazione Disney Fox. Per 52 miliardi e spiccioli Disney compra gli asset pregiati dell'impero di Rupert Murdoch e lancia una sfida globale senza precedenti non solo ad altri colossi dello spettacolo, ma ai giganti di internet e della telecomunicazioni, sempre più integrati tra piattaforme di distribuzione e contenuto, da Netflix ad Amazon, da Comcast ad AT&T. Disney rileva gli studios cinematografici e televisivi di 21st Century Fox e attività internazionali che vanno dalla quota nella TV satellitare europea Sky all'Indiana Star. A Murdoch, che separatamente controlla News Corp, rimarranno le attività nell'informazione, Fox News, Fox Broadcast e canali sportivi regionali, che verranno raggruppati in una nuova società quotata attraverso uno spin-off. Disney ha messo a segno l'acquisizione, valutata a 66,1 miliardi, compreso il debito, interamente in azioni. Con la formidabile unione di content sotto il profilo operativo, lancerà al più presto propri servizi di streaming. Bob Iger di Disney rimarrà alla guida per gestire la storica combinazione. Ha esteso il suo contratto dal 2019 al 2021, sostenuto anche da una richiesta esplicita dell'ottuagenario Murdoch, che di fatto lo ha consacrato erede di un nuovo impero che cambia il volto a Hollywood e a Silicon Valley. Marco Valsani, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. Sport e mafia. La Commissione parlamentare antimafia, presieduta da Rosi Bindi, ha proposto di intervenire sul DASPO, che è il divieto di accedere alle manifestazioni sportive, sia prevedendo dei termini di efficacia più severi che introducendo l'obbligo, e non più la facoltà, di imporre al destinatario di DASPO di presentarsi agli uffici di pubblica sicurezza nel corso delle manifestazioni sportive. Valutare anche poi l'introduzione di misure come strutture su modello inglese che consentano di trattenere temporaneamente soggetti in stato di fermo nello stadio. Così funziona il modello inglese e pare che effettivamente sia efficace. Per chiudere, spazio. Dopo 5 mesi tra le stelle, Paolo Nespoli torna a casa, il secondo europeo per tempo trascorso in orbita. E qui effetto notte, poi cercheremo di raggiungere Roberto Battiston, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. Bene, ora torniamo sulla Terra, aggiorniamo chi sta viaggiando e poi cominciamo allora con gli argomenti, con gli ospiti. Vi ricordo per i vostri commenti pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666 che è il numero per WhatsApp ed SMS. Dice Henry: Roby, evidenziate che lo scandalo non è se la Boschi abbia aiutato, non leggevo Babbo, ma che abbia sempre detto di non aver mai parlato di Banca Etruria quando era ministra. A me sembra che abbia detto che aveva fatto pressioni. Comunque poi ci ritorniamo tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci di nuovo insieme, vogliamo sentire ancora un pezzetto. C'è ancora Maria Elena Boschi sulla 7 con Travaglio. Persone che fanno attacchi anziché stare al merito. credo che sia giusto continuare a difendere la verità dei fatti. Non sono attaccata a una poltrona, ma sono attaccata alla verità e non è giusto lasciare soltanto perché ci sono delle persone che continuano a dire bugie e falsità e non stanno alla verità dei fatti. Mi grazie, dispiace. Quindi devo detto, chiudere, non mi dimetto, ha detto Marilena Boschi, anche perché darei soddisfazione a chi mi accusa in modo sbagliato, infondato, da 2 anni. Poi ci torneremo, adesso invece parleremo di una legge importante, quella del biotestamento, dopo avervi ricordato tra poco i fatti principali. Roberta Giordano sempre con voi, dalle 21 22 tutte le sere i vostri messaggi. Cristiano sul biotestamento dice: una goccia di civiltà autentica in una politica uguale a un calderone di doppiezze. Mentre Maurizio scrive: sì, pensiamo al biotestamento invece di risolvere i veri problemi del paese. Qui c'è sempre il benaltrismo, insomma, non è che quando si approva una legge c'è sempre qualcos'altro di più importante. Le cose si possono fare anche quando ci si riesce un po' più contemporaneamente. Poi non stiamo parlando della misura delle vongole in questo caso, questa è una questione che riguarda tutti. Ne parleremo tra pochi istanti, vi ricordo i fatti principali per i più ritardatari. Ecco. Banche, il presidente della Consob Vegas, ascoltato su Banca Etruria, dice: ne parlai col ministro Boschi, ma da lei nessuna pressione, le opposizioni chiedono le dimissioni della sottosegretaria, ma lei replica: non ho mentito, niente dimissioni, annuncia querela contro Di Maio. Il biotestamento è legge, ne parleremo tra pochi istanti. Tragedia in Francia, uno scuolabus è stato investito da un treno, 4 bambini morti, 7 feriti gravi. Il vertice europeo, a Bruxelles permangono le forti distanze sul tema immigrazione, domani invece ci sarà l'accordo sulla Brexit. Milano, trovato il cadavere dell'ex calciatore La Rosa, scomparso, era nel bagagliaio di un'auto. Intrattenimento, Walt Disney compra i film e la TV di Fox per competere con Netflix. E per quanto riguarda lo spazio, dopo 5 mesi tra le stelle torna sulla Terra Paolo Nespoli. Quindi dicevamo, il biotestamento è legge dopo una lunga attesa, dopo tante polemiche, dopo scontri politici. Oggi il Senato ha dato via libera definitiva la legge con 180 sì, 71 no e 6 astenuti. Quindi è passata soprattutto questa legge grazie a un'intesa trasversale tra PD e Movimento 5 Stelle. Il Presidente del Consiglio Gentiloni ha detto: è un passo avanti per la dignità delle persone. La Presidente della Camera Boldrini ha commentato: un importante atto di responsabilità del Parlamento. Poi si sono viste le lacrime di Emma Bonino. Beppino Englaro, il padre di Eluana, la giovane donna rimasta in stato vegetativo, vi ricordate, per 17 anni, ha detto: non dovrà esserci mai più una tragedia nella tragedia come quella di Eluana. Questo è un giorno importante per i diritti e la libertà di tutti, una svolta di civiltà del nostro paese. Contraria alla CEI, la conferenza dei vescovi, che hanno detto: la legge tutela i medici, gli ospedali pubblici, sposta sul malato l'onere della responsabilità delle scelte, ma sembra poco efficace nella tutela dei sofferenti. Contraria anche l'associazione dei medici cattolici, che hanno detto: rammarico e contrarietà, ci sarà una forte obiezione di coscienza, l'obbligo della legge per le strutture sanitarie private è incostituzionale. Ma la sezione di Milano dei medici cattolici si dissocia e saluta con favore invece la legge. Ma sentiamo, per quanto riguarda la politica, 2 pareri a confronto: Centinaio della Lega contrario e Zanda del PD favorevole. Siamo contrari a questo pasticcio, Presidente. Questa legge è l'anticamera dell'eutanasia e sa che cosa lo conferma? L'abbiamo avuta ieri la conferma, quando avete dichiarato inammissibili tutti gli emendamenti che chiedevano una condanna esplicita dell'eutanasia. Una legge per la dignità delle donne e la dignità degli uomini, che hanno diritto di una nascita dignitosa, di una vita dignitosa ed anche finalmente di una morte dignitosa. Ma a questo punto, al di là del dibattito, delle polemiche, delle diverse posizioni, ormai il biotestamento è legge, quindi la cosa importante è capire ora che cosa contiene, che cosa cambia. E quindi ne parliamo con la senatrice Emilia De Biasi, senatrice del Partito Democratico, relatrice di questo provvedimento. Buonasera De Biasi. Buonasera, grazie per avermi invitato. Grazie a lei. Allora, la prego quindi, siccome le ascoltatrici e gli ascoltatori hanno naturalmente assoluta necessità di capire bene che cosa contiene questo provvedimento, intanto diciamo che il biotestamento ha lo scopo di permettere a tutti di manifestare chiaramente le proprie volontà su trattamenti ammessi o esclusi nelle fasi finali, insomma, di una malattia, no? Ci spiega lei con semplicità, senatrice, che cosa contiene come punti principali? Innanzitutto, le disposizioni anticipate di trattamento non sono un obbligo, ma sono la scelta libera di qualunque persona di poter appunto sottoscrivere queste volontà anticipate di trattamento nel caso del fine vita il rifiuto di avere, per esempio, accanimento terapeutico. È un punto di grande novità perché si sposta sulla persona interessata l'ultima parola, e questo corrisponde ai cambiamenti della medicina moderna. Noi parliamo sempre di più di medicina personalizzata, quindi il paziente è al centro e il paziente ha il diritto di dire la sua, e se non vuole trattamenti che sono invasivi e che sono contrari alla sua volontà, ha tutto il diritto di non averli. In secondo luogo, quindi, dà attuazione ad alcuni articoli della Costituzione, penso per esempio all'articolo 32 sulla salute, che dice chiaramente che c'è l'autodeterminazione della persona. E la seconda novità rilevante è la definizione del consenso informato, e cioè ogni cittadino, ha ogni persona ha il diritto di conoscere quali sono le terapie che gli vengono somministrate. E quindi questo è un secondo punto chiaro messo in legge. Il terzo punto molto importante è quello appunto del rifiuto dell'accanimento terapeutico, ma nella relazione con il medico la pianificazione delle cure, cioè quando si è sul fine vita è giusto che nella relazione medico-paziente vengano spiegati tutti i passaggi per fare cosa? Per non soffrire. Perché guardate, le sofferenze che ha una persona in fine vita con un cancro, per esempio, sono sofferenze indicibili. C'è una legge nel nostro paese molto importante, fatta nel 2010, approvata nel 2010, che è la legge sulle cure palliative e la terapia del dolore, una legge ancora troppo poco applicata. In questa legge è previsto il sostegno alla persona. Infatti palliativo deriva dal latino pallium, mantello, e cioè nel momento drammatico della fine della vita, un mantello che avvolga con la cura fisica e psicologica la persona. In questa legge è sempre prevista la possibilità della sedazione palliativa profonda, e cioè quando ormai siamo in una situazione irreversibile è giusto che ci sia la sedazione palliativa profonda e che quindi si accompagni la persona dolcemente all'ultimo passo della sua vita con dignità. L'altro grande elemento di novità è quello che ha riguardato il caso Englaro, è legato a due elementi. Il primo è quello della possibilità di definire anticipatamente le proprie volontà, se questo fosse stato possibile ai tempi di Eluana la prima sofferenza si sarebbe ovviamente evitata. La seconda è quella che riguarda il fatto che nutrizione e idratazione artificiali sono trattamenti sanitari e che quindi come tali possono essere rifiutati dalla persona interessata. C'è poi una parte rilevante che riguarda i minori e la tutela dei minori da parte della famiglia e del fiduciario anche per le persone diciamo con disabilità pesante, e c'è la definizione di come queste disposizioni anticipate di trattamento possono essere fatte, e cioè ci sono dei registri regionali, per ora regionali, ma so che i colleghi della Camera hanno presentato un emendamento alla legge di bilancio molto importante che dice appunto che si può fare anche un registro nazionale. Quindi, senatrice De Biasi, mi scusi, allora ha detto non è obbligatorio fare queste dichiarazioni anzitempo. Certo, ecco, chi certo le volesse fare, che cosa, dove deve andare, a chi si deve rivolgere? Come fa a fare? Si può andare nella ASL di competenza, OAST, adesso a seconda delle regioni si chiama in un modo differente, si può andare davanti a un notaio, per esempio. L'importante non è dove si vada, si può andare anche in comune per dire dove c'è il notaio, l'importante è che la DAT sia registrata presso la ASL, perché così rientra nel registro regionale, e se per ipotesi mi succede qualcosa, a qualcuno succede qualcosa, un incidente per cui perde conoscenza, non è in grado di parlare con il medico che lo assiste in quel momento, attraverso il sistema informatizzato dei Quindi ovunque gli succedesse. Questa DAT viene messa nel fascicolo sanitario elettronico della persona. Chiaro. Senatrice De Biasi, per chiudere, non è previsto il suicidio assistito in questo No, guardi, legge. Non solo non è previsto, ma io personalmente sono contraria a ogni forma eutanasica, ma al di là di questo non è previsto e anzi noi abbiamo, la Presidenza del Senato ha ritenuto inammissibili, secondo anche quello che aveva fatto la commissione che io presiedo, la commissione sanità, ha ritenuto inammissibili tutti quegli emendamenti che si riferivano all'eutanasia per estraneità di materia, perché è proprio tutta un'altra cosa. Chiarissima. Senatrice Emilia De Biasi, nel ringraziarla leggo solo due dei tanti messaggi. Uno dice: un po' cinico, ma i malati gravi sono un costo enorme tra medicina, apparecchiature, medici, sussidi alle famiglie, alle persone. Per cosa? Per soffrire tutti all'infinito senza soluzione. Sì, ma non è questo l'obiettivo della legge comunque. E poi invece dice un altro ascoltatore, dice: premettendo che sono d'accordissimo con la legge, sembra che lo Stato, non potendo garantire una vita dignitosa a molti cittadini, prova a garantirne almeno la morte, costa meno. Insomma, sì, sono, diciamo che per garantire una vita dignitosa è anche una morte dignitosa. E poi Max scrive: secondo me quella che sarà proprio la volontà nel momento supremo nessuno può davvero prevederlo. A questa legge io preferirei vi fosse soltanto quella sull'eutanasia, volontà espressa nel momento in cui si sta realmente vivendo e coscientemente lo stato di sofferenza. Sì, però a volte la si vive la sofferenza senza poterla esprimere, se uno fa prima questo testamento, questo biotestamento. Comunque, intanto un passo si è fatto. Senatrice De Biasi, la ringrazio e buona continuazione. No, soltanto, posso dire una sola cosa? Prego. In finale. Io capisco, capisco le persone che dicono ci sono delle esigenze, delle urgenze materiali, però guardate che i diritti sono quelli che poi cambiano anche le esigenze materiali delle persone. Chiaramente. Quindi i diritti sono importanti. Grazie senatrice, grazie, buon lavoro. Grazie mille, arrivederci. Ora torniamo sulla politica, ma su altri aspetti, quelli della bufera di nuovo sulla vicenda Banca Etruria, quindi non solo per le pesanti conseguenze sui risparmiatori, tornata alla ribalta delle cronache, ma anche per le cose che emergono man mano dalle audizioni in commissione parlamentare d'inchiesta, no? Con tutti gli incandescenti risvolti politici di cui ci parlerà adesso la nostra Elisabetta Fiorito. Ciao Betta, in diretta da Roma. Buonasera, un'unica parentesi per la senatrice De Biasi. È vero, io ho avuto mia madre e ha avuto delle cure palliative che l'hanno accompagnata fino all'ultimo momento della sua vita. Queste cure palliative di queste associazioni sono molto importanti, sì, e io invito qualcosa. Tutti quanti a sostenerle, perché come si accompagna una persona nell'ultimo momento della sua vita, anche quando non c'è più speranza, e ci sono questi volontari di queste associazioni, queste ollus alle quali si può aderire col 5 per 1000, è molto importante farlo. Sì, conosco. Scusami. Bene, condivido. No, condivido, Betta. Questo è molto importante, perché alle volte morire nella propria casa, immersa tra i propri cari, è molto importante. Qui finisce la mia parte seria. Ecco. Adesso, siccome si parla di politica, inizia la mia parte un po' faceta, perché io sfotto un po' tutti i politici. Senti, oggi per pungolarli a fare meglio. Sì. Ecco, questo è importante. Quindi, a fare quelle leggi magari sulle malattie, i stato terminali, le cure palliative, ecco, per dire, no? Senti, Betta, oggi abbiamo detto, ha parlato Vegas, no? Il presidente della Consob, che è l'organo di controllo della borsa, ed è subito riscoppiata la polemica su Banca Etruria, perché in realtà va avanti da circa 2 anni. No? Vegas ha rivelato che l'allora ministra per le riforme Boschi gli chiese un colloquio per parlargli di Banca Etruria, quindi subito sono insorte le opposizioni chiedendo le dimissioni di Maria Elena Boschi, però poi ha detto lui: in realtà non mi ha fatto pressioni, voleva solo capire se c'erano dei problemi. Vogliamo sentire un passaggio di Vegas, appunto, l'audio? Sì, ho avuto modo di parlare della questione di Banca Etruria con l'allora ministro Boschi. Mi venne prospettato un quadro di preoccupazione, perché ad avviso del ministro ci poteva essere l'eventualità che Banca Etruria fosse in qualche modo incorporata da Veneto da Banca di Vicenza, e questo sarebbe potuto essere di nocumento per la principale industria di Arezzo, che è quella dell'oro. Io non potevo dire niente, perché non è competenza di Consob intervenire sulle scelte di aggregazione delle banche, quindi generico, nel senso che mi ha illustrato la situazione, io ho detto che la Consob non era competente, punto. Quindi non si è andato su una cosa specifica. Se vuole contesto, il ministro chiese di vedermi, venne a Milano, mi parlò dell'argomento e tornò a Roma. Sentiamo subito, scusa Betta, Renzi a Piazza Pulita adesso in diretta sulla 7, magari sta parlando di Boschi, immagino, come Senta, primo intervento, vediamo. È bene dirlo, cioè... No, sono le bufale che girano sul web, ma da molti anni, tesi negazioniste... Sta parlando di qualcos'altro. Sentiamo invece Marielena Boschi come ha risposto fra i vari passaggi, uno abbiamo fatto sentire prima, sempre sulla 7 a 8 e mezzo. Abbiamo parlato del sistema bancario, tutto, non di Banca Etruria nello specifico, in generale perché? Perché Vegas è il presidente di Consob che si occupa di società quotate. Tra le società quotate ci sono anche le banche, quindi in un incontro col presidente di Consob si parla di questo a livello istituzionale. E lei ha espresso le sue preoccupazioni sui per giornali, Banca Etruria. Sì, sui giornali si parlava della possibile aggregazione tra Banca Etruria e Vicenza, era su tutti i giornali in quel periodo. Quindi, en passant, sì, abbiamo parlato anche di questa ipotesi e non ci vedo niente di strano. Lo fanno tutti i ministri, lo fanno tutti i membri del Parlamento, come ha detto lo stesso Vegas. Non sono stata solo io. Tutti i ministri e membri del Parlamento che lo chiedono parlano con lui di vari temi. Ma non ho fatto pressioni, non ho chiesto di intervenire, non ho chiesto di bloccare niente. Betta, quindi rispunta fortissimo poi in campagna elettorale la questione delle banche. Le banche Etruria, allora, in particolare. Diamo un colpo al cerchio e un colpo alla botte, no? Maria Elena Boschi, sapendo che il padre sarebbe stato nominato di lì a poco amministratore, insomma, nei vertici di Banca Etruria, avrebbe fatto meglio a stare zitta. Cioè, nel senso, uno è un ministro del governo, quindi non è il cittadino comune che va a parlare con il presidente della Consob, è il ministro in quel caso dei rapporti con il Parlamento, insomma, ha una carica istituzionale, forse era meglio tacere. Per opportunità, infatti c'è un ascoltatore che scrive: Boschi era un ministro, non c'entra il territorio aretino, sì, ma l'intera anche... Italia, perché non si era interessata di tutte le altre banche? Diciamo. Dopodiché lei non si è interessata di tutte le altre banche perché Banca Etruria aveva a che fare con i suoi risparmiatori, con il suo bacino elettorale, però comunque avrebbe fatto meglio a stessa. Come si dice, e questa a Roma, è l'opportunità, no? Politica, sì. Cioè, l'opportunità politica. Dopodiché noi abbiamo un risvolto di Vegas poco edificante, perché questo presidente della Consob dice a una bella donna, lui uomo anche un po' âgé, lei nel fiore degli anni, perché poi, insomma, voglio dire, bisogna anche dire le cose come stanno. È bella. E di che andare cos'è? Da lei a casa sua. Allora, insomma, il problema dell'Italia è sempre il solito, chi è il più pulito ha la rogna, hai capito? Allora, in tutto questo ci sono due rappresentanti delle istituzioni che fanno delle cose che non sono lecite. Diciamo opportune, forse, più che altro opportune. Opportune, ecco. Lecite, opportune. L'Alboschi chiede di Banca Etruria, magari anche io non voglio nemmeno pensare al padre, voglio fare per il suo bacino elettorale, comunque inopportuno perché tu sei un ministro di tutta la nazione, e Vegas gli dice vieni, ne parliamo a casa mia a colazione, e quella gli dice scusa. Insomma, in tutto questo ne esce quel pasticcio brutto per cui i nostri risparmiatori, chi si fidava delle popolari, che erano delle banche che erano stabilizzate nel territorio, per cui tu avevi l'impiegato allo sportello che era un tuo amico, rapporto, no? Di fiducia. Un rapporto assoluto di fiducia, si vede crollare completamente la fiducia e soprattutto si vede depauperato dei suoi risparmi. A questo il governo Renzi e il governo Gentiloni hanno messo una toppa parziale, però va ristrutturato tutto il sistema. Una cosa dice bene Boschi, però questo non è stato solo Banca Etruria, c'è la Popolare di Vicenza, insomma Il problema è che il sistema bancario, soprattutto delle piccole banche, non ha più retto all'urto della crisi. Ecco, su questo secondo me bisogna fare un'analisi profonda per capire dove va la nostra economia, dove va il nostro sistema imprenditoriale, dove va il nostro sistema bancario. Ovviamente su una bella donna, ministro, anche un po' pasticciona, si accanisce l'opinione pubblica. Detto questo, lì pure, perché Vegas ha parlato, lei non è andata a quella colazione alla quale lui l'aveva invitata a casa sua. Ecco, questo un pochino, cioè, e l'altra cosa, comunque, in primis ha sbagliato lei, perché come ministro non doveva perfettamente parlare. Anche io voglio fare la buonista, anche se fosse stata preoccupata di Arezzo e quindi di elettori del suo bacino elettorale, di chiarissimo, persone che magari conosceva. Betta, ecco, sentiamo un passaggio ancora di Renzi che sta parlando, poi ci dobbiamo lasciare. Scultura più che io so. Sì, sì, ha ragione. Cioè, cosa diceva sostanzialmente? Diceva: se tu vuoi essere cittadino italiano, devi fare almeno un ciclo di studi nel paese. Ed è un principio, secondo me, di buon senso. Poi c'è un principio sul quale sta parlando lo Ius Soli, Ius Culture, che però insomma mi sembra ancora distante. Cioè, Betta Fiorito, ci dobbiamo lasciare qui. Grazie, buona serata. Grazie a voi. Ciao Elisabetta. Prendiamoci la pausa sempre in questo momento. Pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti, oppure li potete dirottare con SMS e WhatsApp su 349-238-6666. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se per caso state, anzi dovete ascoltare Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche se volete, con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano, che vi accompagna tutte le sere dalle 21 alle 22 con le notizie più importanti della giornata e con gli approfondimenti, con gli ospiti. Per esempio, prima abbiamo parlato di biotestamento, che è legge tra i fatti principali della giornata, con la relatrice De Biasi del provvedimento, che ci ha spiegato bene tutti i punti principali. Banche, il presidente della Consob Vegas, ascoltato su Banca Etruria, dice: ne parlai col ministro Boschi, ma da lei nessuna pressione. Le opposizioni chiedono le dimissioni della sottosegretaria, ma lei replica: non ho mentito, niente dimissioni, annuncia querela contro Di Maio. Tragedia in Francia, uno scuolabus è stato investito da un treno, 4 bimbi morti e 7 feriti, il vertice europeo di cui parleremo tra pochissimo. E poi, per quanto riguarda l'intrattenimento, Walt Disney compra i film e la TV di Fox per competere con Netflix. E adesso siamo qui con il nostro Sergio Nava. Ciao Sergio, vogliamo sentire un attimo ancora Renzi sulla 7? Cose. E non appare niente di ciò che ha detto, ad esempio, dei rapporti con Banca d'Italia o dei controlli fatti non soltanto sulla vicenda delle Boschi, quattro banchette, ma anche di tutte le altre vicende. Perché non se ne parla mai? Cos'è che porta l'Italia a aver paura di guardare in faccia questo Moloch delle banche? Mi hanno detto oggi: ma perché hai fatto fare la commissione d'inchiesta? Perché, intendiamoci, la commissione d'inchiesta l'abbiamo fatta noi, l'abbiamo richiesta noi. Non le sta portando una grandissima fortuna. Non mi interessa, la verità deve venire fuori. Cioè, il problema è che... La polvere sotto il tappeto. Però mi scusi, non ci può stare. Presidente, lei ha ragione. Bisogna avere il coraggio di... Adesso parliamo con Sergio Nava, appunto, del vertice europeo di Bruxelles, che è in corso, i temi principali, migranti e Brexit. Però mi pare che non ci sia stato neanche questa volta l'accordo sui migranti, se non c'è stato addirittura lo scontro. Poi sentiremo Gentiloni tra poco. Allora, non era da tendersi un accordo sui migranti, perché era già stato deciso che una riforma del sistema di migrazione in Europa, incluso il famigerato ormai accordo di sistema di Dublino, non arriverà prima di giugno, ma diciamo che ormai si va di rinvio in rinvio, doveva arrivare già qualche mese fa. Poi il problema è che c'è una divisione fortissima tra est e ovest, o meglio tra sud ed est in questo momento, tra Italia e i paesi comunque che più si fanno carico dei migranti, quindi Italia e Grecia, diciamo, anche Spagna, e il cosiddetto gruppo di Visegrad, cioè i paesi dell'Europa dell'est, tutti Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia, Polonia, che non ne vogliono sapere, non vogliono avere ricollocazioni migranti, per quanto numeri piccoli, non intendono. Non ne vogliono sapere. E oggi è stato anche, se vogliamo, una situazione strana, perché questi paesi sono presentati con 36 milioni di euro da dare all'Europa, di fatto all'Italia, per gestire dei progetti di gestione del flusso migratorio in Libia, dicendo questi sono i soldi, occupavo però... di voi. Voglio sentire Gentiloni che cosa ha detto, come ha commentato il Consiglio. Sì. Sì, come ha commentato. Noi ci siamo detti come si fa tra paesi europei che hanno rapporti storici come l'Italia con questi paesi, la Cechia, la Slovacchia, la Polonia, l'Ungheria, che sappiamo benissimo di essere quasi all'estremo opposto come posizioni su la dimensione interna, qui si dice in gergo tecnico, cioè la trattazione dei confini interni all'Unione Europea. Noi pensiamo che le chiusure siano sbagliate, i muri siano sbagliati e che la cosiddetta ricollocazione di quote obbligatorie sia il minimo sindacale da un certo punto di vista per l'Unione Europea. Il minimo sindacale, ha detto, no? Meno quello. Ma il problema è che poi si è inserita una spaccatura anche tra Consiglio Europeo, dove il presidente Tusk è polacco e nei giorni scorsi aveva di fatto stralciato l'ipotesi quote, l'aveva un po' tolta all'agenda, poi la Commissione e i paesi, diciamo, dell'Ovest hanno detto un attimo, la ricollocazione dei migranti è il minimo da fare, l'ha detto anche Gentiloni. Il problema è che su questo tema l'Europa non c'è, non riesce a trovare un'unità, e qui stiamo pagando il prezzo dell'allargamento, perché su questo l'est e l'ovest sono quanto di più distante possibile, soprattutto alcuni paesi dell'est, non tutti. Senti, un'ultima cosa prima di lasciarci, Sergio, poi invece mi pare che ci sia accordo, si vada sempre più in avanti su una difesa comune in Europa. Diciamo, è stato il VAR ufficiale, nel senso che già era previsto, tra l'altro il numero è anche interessante, 25 paesi su 27, ho già tolto la Gran Bretagna, quindi è di fatto un embrione di quelle potrebbe poi diventare una vera e propria difesa europea, si lavorerà già su progetti specifici a livello di marino, a livello di emergenze, eccetera, quindi è qualcosa di importante. Ultimissima cosa, la Brexit, domani si varerà la fase 2 e lì cominceranno i giochi quelli veri, perché abbiamo una May comunque sempre molto debole e un'Europa deve tirare fuori un accordo di partenariato che non rimetta tutto in discussione quello su cui tutto quanto su cui si è già trovato l'accordo, cioè Irlanda del Nord, cittadini e conto del divorzio. Quindi da domani si comincia a ballare veramente sulla Brexit. Allora, da domani balliamo e ci aggiorniamo. Grazie Sergio. Grazie a voi, ciao. Ciao Sergio, viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Notizie tantissime che vi ho raccontato finora e anche con gli ospiti le abbiamo approfondite. I titoli principali sono: Vegas, presidente della Consob, oggi in commissione parlamentare, nuova bufera sul caso Boschi Etruria, lui dice venne a parlarmene, lei dice non mi dimetto, così le chiedevano le opposizioni, dice mi invitò a casa. E poi il biotestamento è legge, arriva il no della conferenza episcopale italiana, commossa invece Emma Bonino, e adesso Grasso spera anche nello Ius Soli. Poi scontro al vertice dell'Unione Europea sui migranti, ne abbiamo appena parlato, e in Francia un treno che travolge uno scuolabus, 4 ragazzi morti e diversi feriti, 7 gravi. E adesso invece parliamo di spazio. Anzi, parliamo di un ritorno sulla Terra, che è quello di Paolo Nespoli, o Astro Paolo, come è stato chiamato, come era stata chiamata Astro Samantha, la Cristoforetti, l'astronauta. È tornato a casa dopo 139 giorni tra le stelle, quindi 5 mesi circa, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, con un atterraggio perfetto oggi in Kazakistan, a meno 16 gradi, quindi una bella accoglienza. Si è chiusa così la missione vita dell'Agenzia Spaziale Italiana. E Nespoli è il secondo europeo per tempo trascorso in orbita, tantissimo, appunto 5 mesi, ora ci metterà circa 6 mesi più o meno a riprendersi per tornare a una vita normale. Ne parliamo con Roberto Battiston, che è presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. Battiston, buonasera, grazie della sua disponibilità. Buonasera a voi. Quindi 6 mesi perché? Perché per questione del si parla di osteoporosi, no? Quando si va in orbita la densità delle ossa che diminuisce. Quali altre? Dunque, sei mesi è una durata che si ritiene sufficientemente lunga per studiare tutta una serie di fenomeni legati anche all'adattamento del corpo umano. No, mi perdoni, Battistone, io no, prima le chiedevo, dopo parleremo dello scopo di questa missione, ma adesso perché ci metterà 6 mesi a ritornare? Sei mesi, ma in realtà 6 mesi è proprio per dire che torni la totale, normalità di partenza. In realtà lui avrà i primi giorni effetti di sbilanciamento, l'equilibrio, le cose lasciare accadere dalle mani perché è abituato che galleggiano. La mancanza di gravità, ecco, sì. Già dopo pochi giorni lui riuscirà a camminare regolarmente, a riprendere le funzioni più semplici, più elementari di equilibrio, controllandolo perfettamente, ma ci sono alcune particolari funzioni del proprio organismo, per esempio la distribuzione dei liquidi. Quando uno sta in assenza di gravità perde molti liquidi e quelli residui, andando alle gambe verso la testa, si gonfia la parte del corpo perché appunto non c'è più la gravità che tira i liquidi verso il basso. Quindi dovrà abituare un nuovo equilibrio. Battistola, sentiamo male, sta mica andando nello spazio anche lei? Pronto? No, se cerco di sentire meglio, mi sono spostato. No, non tanto bene. Provi ancora a spostarsi. Sposto ancora, andiamo un po' a fermo lì. Ecco. Sì, qua sono all'aperto. Bene. So, purtroppo l'abbiamo tirata fuori da dove era. Quindi vabbè, insomma, questa era la curiosità per capire quindi, che cosa succede. I sei mesi sono perché tutte le funzioni dell'organismo si riadattino esattamente. Ma lui fra una settimana e 10 giorni tornerà a fare una vita quasi normale. Naturalmente sotto l'osservazione medica, dal punto di vista osseo e muscolare, probabilmente lui non si è molto indebolito perché in questi anni si è imparato a fare una serie di ginnastiche a bordo e anche diciamo delle modalità di mangiare o particolari medicamenti che riducono moltissimo la perdita ossea o la perdita muscolare. Densità. Spendono quasi 2 ore al giorno a fare ginnastica. Caspita, quindi hanno imparato a fare fitness anche lì. Adesso invece Battistone, lei giustamente diceva qual era stato lo scopo di questa missione, la ricerca scientifica che ha... Certo, sono missioni chiamate di lunga durata e sono quelle di intorno ai 6 mesi. In alcuni casi eccezionali si è arrivati anche all'anno, ma per adesso la maggior parte degli astronauti fanno 6 mesi, poi si valuta la risposta del loro organismo a tutta una serie di funzioni. Per esempio gli occhi hanno una situazione che si è vista essere critica col tempo, chiaramente le ossa, i muscoli, certi altri aspetti. Che nel caso di Nespoli, essendo un ragazzone di 60 anni, chiaramente ci permetterà anche di capire come un organismo più adulto, più anziano, risponda a quello stress. Perché l'organismo di Nespoli è uno degli esperimenti complessi che ci portiamo a bordo della stazione spaziale e la risposta del suo organismo aiuterà a capire una serie di questioni legate appunto al comportamento del corpo umano in quelle condizioni. Battistone, invece per il futuro prossimo cosa è previsto? Che cosa cosa bolle in pentola? Ma adesso noi continueremo a usare la stazione spaziale regolarmente ogni paio d'anni, già nel 2019 avremo una missione di Luca Parmitano, quindi ogni 2 anni un nostro astronauta, abbiamo avuto prima Samantha, prima ancora abbiamo avuto ancora Nespoli, prima ancora Vittorio e così via. Quindi ogni 2 anni un nostro astronauta utilizza questa grandissima opportunità dell'attività scientifica e tecnologica nella stazione spaziale internazionale, perché l'Italia ha investito moltissimo in quella realizzazione e ha dei diritti di utilizzo importanti. Se guardiamo al futuro, c'è la grande discussione dove andare dopo. Dovremo staccarci dalla Terra, da quelle orbite chiamate basse, a 400-500 km di altezza, puntare verso la Luna per fare lì uno spazioporto, forse addirittura per scendere di nuovo sulla Luna. Il Presidente degli Stati Uniti ha deliberato recentemente... Sì, proprio in questi giorni Trump ha detto torniamo sulla Luna e andiamo su Marte. Esatto, su Marte, e chiaramente poi l'obiettivo a lungo termine è Marte, ma naturalmente per andare su Marte dobbiamo imparare molte cose su come si vive nello spazio. Per molto tempo, dura quasi 2 anni una missione su Marte, frandata, attesa sulla superficie marziana e ritorno. Stiamo parlando di un obiettivo molto ambizioso, ancora oggi ci mancano delle tecnologie per sviluppare le quali, per esempio, andare sulla Luna per un certo periodo potrebbe essere molto utile. Quindi prioritariamente sulla Luna e poi magari, pensiamo, dice c'è tempo, insomma, per attrezzarsi per andare su Marte. Grazie Roberto Battistone, grazie mille. Prego, buonasera, buon lavoro. A grazie a lei, ricordo Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. Vedo ancora Renzi che sta parlando sulla 7, ma noi penso che a questo punto sì, ci dobbiamo lasciare. Vogliamo sentire proprio 30 secondi? Vogliamo sentire cosa dice? Non lo dica a me, ma il problema è che il PD di Bersani... No, è Formigli che parla adesso, quindi 2000... ci lasciamo e ci risentiamo per i titoli come al solito alle 22.